La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci qui alle 16.30, primi 36 secondi in diretta agli studi di Milano della radio, in questo venerdì santo, venerdì 25 di marzo, sono le 16.30, primi 45 secondi, e il tema della puntata ha a che vedere, seppur indirettamente, esattamente con questioni di, tra virgolette, religione, o meglio, con questioni di rapporti tra la Repubblica Italiana, tra il nostro Stato e confessioni religiose. Perché? Perché il caso vuole, vi dico subito, telefonate su questi argomenti se siete interessati a intervenire, 800 24 00 24, lo sapete, il numero di telefono, e per gli sms 349 238 6666. Il caso vuole che nello stesso giorno, ieri, si siano sommate due prese di posizione politiche che hanno a che vedere con il rapporto tra confessioni religiose, in un caso l'Islam, cioè la comunità musulmana, nell'altro la Chiesa Cattolica Italiana, e lo Stato, per quello che riguarda l'8 per mille. Quali sono state queste due prese di posizione? E vi chiedo naturalmente di darci la vostra opinione sulle richieste che sono state avanzate, le opinioni avanzate dai due politici, di cui adesso sinteticamente vi richiamerò le loro opinioni. Noi tenteremo una trasmissione però di capire qual è la ratio, la logica e la possibilità di queste proposte, cioè tenteremo di farvelo spiegare da proponenti ed esperti della proposta. Allora, il primo esponente politico è stato l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha avanzato una proposta. Bisognerebbe utilizzare l'8 per mille, estendere l'8 per mille anche ai musulmani italiani, e con i denari pubblici dell'8 per mille, cioè quelli risultanti dalla quota di chi liberamente sceglie di devolvere nella dichiarazione dei redditi, finanziare l'erezione e la costruzione di moschee. Perché, ha aggiunto Massimo D'Alema, se continuiamo ad andare avanti poi con le moschee finanziate da questo o quel pezzo di Islam, non ci lamentiamo se il nostro, tra virgolette, controllo, i nostri rapporti per fare in modo che nelle moschee ci siano attività solo alla luce del sole, trasparenti, non si facciano prediche o affiliazioni, sostegni diretti o indiretti all'islamismo, e per evitare questo ci vuole una trasparenza anche sul denaro, quindi l'8 per mille anche alle moschee. E questa prima proposta, dirò poi come la penso. Seconda proposta, questa viene invece da Pippo Civati un gruppo di altri parlamentari che sono stati eletti nel PD e poi sono usciti dal PD, sono confluiti nel gruppo misto. E l'onorevole Civati dice: noi l'8 per mille dobbiamo affrontare una questione. Qual è la questione? La questione è del meccanismo per il quale la legge che disciplina l'8 per mille, per quello che riguarda la proporzione di attribuzioni sul totale dell'optato, cioè delle scelte fatte dai contribuenti, ha un meccanismo che va corretto. Perché? Perché questa legge prevede che nel caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la scelta fatta invece in proporzione alle scelte espresse da chi esprime la propria preferenza si applichi anche all'inoptato. Ne abbiamo più volte parlato a questi microfoni, non solo io ma tante volte, ed è questo meccanismo, cioè la proiezione sull'inoptato delle percentuali di chi ha espresso la propria preferenza, che consente poi che la preferenza a favore della Chiesa Cattolica, che va dal 40% un po' meno dei contribuenti, diventi l'82% invece delle risorse totali attribuite all'8 per mille, cioè invece di 400 e rotti milioni, quasi mezzo miliardo, 480 e rotti milioni, diventi oltre un miliardo alla Chiesa Cattolica. Correggiamo questo meccanismo, dice l'onorevole Civati e i suoi cofirmatari, perché è una specie di trucco, non va bene in parole povere. capite bene che, siccome sono 600 milioni di euro, non è una cosa di fronte alla quale la CEI, che è firmataria dell'intesa con lo Stato italiano in applicazione a propria volta del concordato, noi abbiamo un duplice regime con la confessione cattolica dal punto di vista ordinamentale, con le altre confessioni invece abbiamo, che partecipano all'8 per 1000, abbiamo sottoscritto delle intese. Ecco, adesso vediamo i due ospiti, voi diteci come la pensate, favorevoli all'8 per 1000 per le moschee anche ai musulmani, favorevoli a cambiare il meccanismo che estende alle risorse a inoptate la quota percentuale di chi invece opta per questa o quella confessione nell'attribuzione delle risorse. Ecco, queste due questioni. Abbiamo con noi due ospiti. Uno è quello che ci deve aiutare a capire le questioni ordinamentali. Insegna diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza, ha avuto un'esperienza politica, e il professor Stefano Ceccanti. Grazie di essere con noi. Prego, buonasera. E poi abbiamo il proponente della seconda parte, quella che riguarda il meccanismo optato inoptato e i 600 milioni in meno alla CEI, cioè Pippo Civati. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Io devo chiedere prima, Civati, al professor Ceccanti di spiegarci una cosa, perché io sono fermo nella mia cosa di autodidatta alla lettura di un testo che risale a 2 anni fa, un bel tomone edito da Giappichelli, per chi volesse approfondire, si intitola Comunità islamica e comunità islamiche in Italia, identità e fonti giuridiche, che analizza tutta la complicata questione dei rapporti del nostro ordinamento con l'Islam italiano. E in quel libro, che è curato da Carlo Cardia e Giuseppe Della Torre, c'erano molte pagine dedicate al tema sollevato da Massimo D'Alema, e spiegava però il fatto che quale 8 per 1000? L'8 per 1000 noi non possiamo applicarlo, perché in realtà non c'è nessuna intesa con i musulmani italiani, perché non c'è nessun soggetto che li rappresenta unitariamente. Professor Ceccanti, ci aiuti a capire, non è che D'Alema non lo sa, ma allora perché propone questo? Come si può fare? Dunque, io immagino che lo schema di D'Alema sia quello di fare l'intesa, e quindi anche all'interno di questa intesa poi negoziare un 8 per 1000. Immagino che lui lo sappia, cioè non mi anch'io immagino che lui lo sappia, è ministro, cioè è stato ministro. Quindi diciamo, lui, il suo sottinteso era, il problema principale dell'intesa con l'Islam, al di là di coloro che sono contrari per ragioni pregiudiziali, ma cosa che si giustifica un po' male essere contrari per questioni pregiudiziali, perché le intese servono a regolare gli adattamenti specifici della legge con le singole confessioni. Sì. Non c'è dubbio che l'Islam abbia molte particolarità, e quindi un rifiuto pregiudiziale sarebbe sbagliato, sarebbe poco conforme all'articolo 8 della nostra Costituzione. Il motivo per cui non si è mai riusciti a fare un'intesa con l'Islam è che l'Islam è una religione, diciamo, una confessione anarchica, nel senso che non ha un centro di potere, che un centro esponenziale chiaramente identificato. Però questo non è un ostacolo terribile, tant'è che in Spagna hanno realizzato un'intesa con l'Islam. Metti a un tavolo, cerchi di federare in realtà dell'Islam, in parte lo aveva fatto Amato da ministro dell'interno, creando una specie di consiglio anche con gli islamici, le metti insieme, si crea una specie di federazione di queste realtà islamiche che vogliono l'intesa, si federano tra di loro, dopodiché negoziano un'intesa con lo Stato, e anche hanno nell'intesa, come quasi tutte le intese, quelle che hanno voluto negoziare l'8 per 1000, perché ci sono anche chi come i mormoni per esempio non l'hanno voluto, quelli che l'hanno voluto a quel punto lo negoziano. Quindi cioè, in questo momento abbiamo un ostacolo, l'ostacolo è la mancanza di intesa era dovuta a una non federazione delle realtà islamiche, ma sono ostacoli che se c'è la volontà politica si superano. Allora, a proposito di volontà politica, però io appunto mi sono andato a rinfrescare le mie letture e ho visto questo. In realtà i tentativi, per esempio, di dar vita a una commissione proprio prodromica alla rappresentanza unitaria, istituzionale, presso il Ministero degli Interni, hanno avuto fasi diverse, a seguito delle polemiche interne proprio anche a diverse sigle variamente rappresentanti il mondo musulmano italiano. Uno. Due. Nelle moschee, quelle diciamo ufficiali italiane, quindi non quelle che nascono nelle periferie spontaneamente, se andiamo a vedere nel nostro paese E le forme, quelle giuridiche, sono varie e diverse, cioè per esempio in Toscana, nel Senese, Ancona Valdese, si è dato vita a un tentativo di un comitato che amministra e gestisce la moschea, in cui ci sono 4 membri del comune e 4 invece rappresentanti della comunità islamica. Il caso della grande moschea di Roma è completamente diverso, perché in quel caso c'è un ente al quale dovrebbe fare capo la proprietà di beni nel nostro paese riconducibili all'Islam, e che nacque negli anni 70 per volontà di alcuni governi arabi, e che niente ha a che fare con invece le diverse esperienze di moschee maggiori nel nostro paese. Poi, cosa completamente diversa sono le moschee che sono nate negli anni 80, soprattutto 90, nelle periferie, e che per esempio a Milano, lo sappiamo, quando ci fu il caso della moschea di Segrate, dopo tutte le polemiche per cui nacque eccetera eccetera, nella realtà i più dei musulmani che stavano nella città continuavano a preferire quella di Viale Genere, Viale Padova. Allora, c'è un po' di casino, diciamolo, professor Ceccanti, anche dal punto di vista ordinamentale nostro, che non abbiamo mai tentato di identificare bene nel nostro ordinamento, primo, che cos'è davvero una moschea, perché una moschea non è solo un luogo di preghiera, perché nell'Islam non è così. Non c'è anche un problema di questo tipo, secondo lei, professore? Aspetti, le spiego. Non è che tutte le cose debbono passare tutte quante attraverso l'intesa. Cioè, si possono avere tanti diritti e tante questioni non passando per l'intesa. Ci sono delle norme generali che stanno in una legge del 29 che andrebbero riorganizzate, ripensate. Forse ci vorrebbe una legge più moderna sulla libertà dei culti. Generale, sulla libertà dei culti. Ok, perché com'è strutturato il nostro sistema? Che ci deve essere una legge generale per gli aspetti comuni a tutte le confessioni. Le intese servono solo per le cose specifiche di adattamento dell'ordinamento a quella commissione, a quella confessione. Quindi non è che il problema della costruzione delle moschee è a prescindere, è come la costruzione di un qualsiasi luogo di culto, va fuori dall'intesa. Sì. Quindi cioè, noi non dobbiamo caricare le intese di tutto. Ci serve che si federino tra di loro esclusivamente per il fatto di fare l'intesa, non per il fatto di avere altre questioni. No, no. E l'8 per 1000, siccome è materia tipica pattizia da intese, è uno di questi aspetti per cui serve. Al limite possiamo anche negoziare più intese dallo stesso contenuto con interlocutori diversi se non riescono a federarsi. Cioè, una volta che noi abbiamo preso la decisione politica che noi interessa, anche per rendere autonomi da finanziamenti stranieri, negoziare l'8 per 1000, si può anche negoziare con 2-3 diverse realtà, che a quel punto si prendono 2-3 caselle diverse una dall'altra, una dichiarazione di reddito. Analogamente sia pure molto alla Carlona, e mi perdonino tutti con i fedeli chiese evangeliche. No, noi abbiamo 7 intese, sì, con confessioni cristiane, non cattoliche, quindi insomma, una qualche analogia, non vorrei dire sciiti, sunniti, però voglio dire qualunque sia. Quindi lei dice, innanzitutto è una proposta che serve a dire, ragazzi, vi dovete mettere, cari musulmani, date vita a una rappresentanza unitaria. E poi lei dice, in realtà consentirebbe anche una leva allo Stato, alla Repubblica Italiana, per avere più controllo, oppure no? Sì, cioè nel senso che avere degli interlocutori meno frammentati e più riconosciuti. Se non si riesce ad averne uno, prendiamocene 2 o 3, però abbiamo così degli interlocutori più chiaramente definiti. Quindi meglio così che non avercela e dovere avere la polizia, i servizi. No, ma anche perché molte cose non riusciamo a fare funzionare perché sono specifiche di quella regione lì, ha degli adattamenti specifici, quindi dobbiamo un po' ragionarci su questo. Comunque c'è anche un bel libro, ci sono vari libri che hanno immaginato, sì, delle stesure, dei testi di intese. Io ne ricordo uno del professor Pin dell'Università di Venezia, Andrea Pin, che è quello che forse aveva fatto il progetto più accurato, ricordando anche progetti vigenti. E la ringrazio anche all'assegnazione bibliografica, che ai nostri ascoltatori che volessero approfondire. Ripeto, lo spirito oggi non è, lo so che aprendo i telefoni voi direte, ma quando mai, proposta pazza, eccetera, eccetera. Ma ok, qui stiamo tentando di approfondire la questione. E se Ceccanti può darci ancora alcuni minuti, adesso noi andiamo invece da Pippo Civati, che ci spiega il senso della sua proposta, perché sono interessato anche all'opinione del professor Ceccanti su questa proposta di Civati. Innanzitutto però Civati ci dica, lei è favorevole o contrario a quello che ha proposto D'Alema? Io sono in larga misura favorevole per le ragioni ultime che lei ha ricordato, ovvero che D'Alema chiede alla comunità islamica di trovare un modo per federarsi, per farsi rappresentare, per diventare interlocutore dello Stato. Secondo me questo è il significato profondo, pur non sapendo più di quanto sapete voi rispetto all'uscita di Massimo D'Alema della sua proposta. No, perché altrimenti sembrerebbe però proprio una provocazione in questi giorni. La no, logica però è questa. Si parla in tutta Europa dei rapporti con l'Islam, della sua multiforme rappresentanza, della sua articolazione interna. Questo è un modo per cercare davvero di avere un interlocutore, un riferimento istituzionale, anche plurale, come è stato detto da Ceccanti, che però possa essere davvero a disposizione delle istituzioni repubblicane. Per cui, se quella è la proposta, se quello è il senso della proposta, io sono d'accordo. C'è un però gigantesco che collega i due temi, però. Sì. Appunto, che la Corte dei Conti stessa, più volte, in ultima occasione l'ha fatto a novembre, ha richiamato la scarsa trasparenza dei fondi dell'8 per mille, di cui noi non sappiamo nulla. Dovrebbero passare dal Ministero dell'Interno al Ministero del Tesoro, e per una sorta di inerzia questo non è mai stato così evidente a chi poi i conti li deve controllare. Quindi io direi che le due cose si tengono. L'oggetto della vostra trasmissione di oggi è unico, nel senso che l'8 per mille va riformato, la rendicontazione, capire dove vanno a finire quei soldi, come si direbbe con il linguaggio ordinario, è la prima cosa da fare. Questo è anche un mio cavallo di battaglia comune al suo, perché io tutti gli anni dico: guardate che la rendicontazione che ci dà la CEI è del tutto sommaria, sappiamo che alcuni di quei denari non vengono spesi per le finalità che vengono identificate con grande chiarezza dalla legge, mentre la rendicontazione è molto sommaria. Però il cuore è appunto il meccanismo opzioni e somme inoptate, invece. Guardi, c'è un modello già nella legislazione italiana, che è quello del 5 per 1000, che è stato congegnato in modo diverso. Chi non opta lascia allo Stato, o comunque lascia a disposizione di una legge, che per l'8 per 1000 c'è, che prevede una certa destinazione di quelle risorse. Questa è la versione più tranchant, no? Nel senso che quel 36%, 37% che lei ricordava prima rimarrebbe tale, e senza, come dire, l'inoptato, quindi senza una proiezione sull'inoptato, sarebbe solo quello. Lei lo sa che la sua proposta passa per anticattolica? No, guardi, volevo proprio dirlo, oggi il Venerdì Santo, rispetto a tutte le persone che credono e che stanno celebrando in questi minuti uno dei momenti più importanti per il cattolicesimo, però c'è un problema gigantesco, perché questa cifra è esplosa. La Corte dei Conti dice che è l'unico indice che è cresciuto in questi anni di tra una mancata crescita e una crisi e un'altra crisi, è l'unica voce, come dire, significativa del bilancio dello Stato che è cresciuta, passando da qualche centinaio di milioni a più di un miliardo. La destinazione, come diceva lei, non è chiara, nel senso che le pubblicità riguardano le attività caritative, che sono solo il 20% di ciò che è destinato realmente, non solo dalla Chiesa Cattolica. Sì, sì, infatti. Io devo dire, il mio modello di rendicontazione, lo dico anche se non sono aderente a quella confessione, è quello valdese. Io sono sincero, cioè preferisco, avendoli tutti comparati ben chiari, perché li vado a vedere ogni anno. Torniamo tra un minuto perché abbiamo l'informazione sul traffico stradale. La versione di Oscar. Allora, siamo tornati in diretta, sono le 16:50, primi 48 secondi. Vi dico solo che ho contato rapidamente, in maniera approssimativa, ma la raffica di sms che avete mandato, più o meno li dividerei così: 15% di insulti e odio verso D'Alema, a prescindere, come dice Totò, ci sono però. Un 15% che dice: non è assolutamente il momento. E il restante, la restante parte però, cosa che per me è interessante, si divide a metà tra chi dice: no, un momento, ma se, come spiegate, è uno strumento per dire ai musulmani, primo vi dovete dare una rappresentanza, secondo deve essere trasparente, quarto a quel punto noi acquisiamo diritti e doveri, voi doveri, ma noi diritti aggiuntivi di controllo su quello che succede nelle moschee, beh, allora è diverso da come avevamo capito, che è solo dargli soldi. Ecco. Allora, l'altra metà dice: no, no, no, non è una questione di principio, ma è una questione che, per come funziona la rappresentanza italiana, il rischio sarebbe molto elevato che andassero in tasche sbagliate. Però è un ventaglio di opinioni molto, molto più ampio di quello che mi immaginassi, a dirvi la verità. Allora, Ceccanti, lei immagino conosceva già l'obiezione nostra sul meccanismo optato in optati dell'8 per 1000. Che pensa però della proposta di Civati in concreto? Dunque, io penso che ci siano due problemi, cioè un problema di scelta politica, ci siano però due problemi. Il primo problema è una coerenza di modello. Se tu vuoi passare al modello che dice lui, devi togliere la casella Stato, perché non, lo Stato attualmente ha una casella in alternativa alle confessioni religiose. Dirò questo che io sono favorevole a quello che sta dicendo, infatti, però Se decidi che allo Stato dai il resto, allora però non deve avere una sua casella. Esatto. E questo è un problema di quello, altrimenti lo Stato mi risbuca due volte, prima mi risbuca come concorrente e poi come quello che prende il residuo. Ma fin qui penso che andiamo sul pacifico. C'è però un problemino che è questo: noi fino ad oggi abbiamo fatto queste cose con le singole intese, in maniera pattizia, tant'è che ci sono due confessioni religiose attualmente, l'Assemblea di Dio, una seconda che non mi ricordo, in origine anche gli ebrei valdesi, che non prendono l'inoptato. Cioè, volta per volta ogni confessione ha discusso con lo Stato e ha stabilito un criterio. Avendo quindi tutta questa roba è in questo momento pattizia nelle singole intese. Non è molto logico, secondo me. Non è molto logico che appunto ci sono dei criteri diversi applicati a confessioni diverse. Esatto. Però ora noi abbiamo un problema. Per uniformarle, visto che abbiamo fatto una legislazione pattizia, dobbiamo concordarlo con le confessioni. Lo so. Non possiamo cambiare. Però, voglio dire, se c'è la volontà politica, si va dalle 8-9 confessioni. Esatto. Sono sicuro che il vero problema si chiama CEI, però è la mia opinione, non me la voglio attribuire. È chiaro che un governo che decidesse di fare questo, secondo me sarebbe giusto farlo, dovrebbe sostenere una campagna, diciamo, un po', perché non si riuscirebbe a spiegare, guardate, la proporzione non si può proiettare sull'inoptato. Io credo che però sarebbe giusto. Sentiamo come la pensa Massimo da Rimini. Massimo, prego. Sì, buongiorno. Io trovo che al di là di tutte le tecnicalità, il modello che secondo me dovrebbe essere perseguito è quello valdese, quello dei valdesi, insomma. Perché questi. Ha colpito anche lei. Sì, perché loro non accettano l'inoptato, che potrebbe tranquillamente rimanere a questo punto allo Stato, e rendicontano l'impiego delle somme in maniera iperanalitica, devo dire, iperanalitica. Non è che la CEI non faccia anche un rendiconto, però è un rendiconto sommario, per così dire. Civati, il PD la farebbe mai una cosa simile come quella che ha proposto lei, secondo lei, il PD attuale? Secondo me no, però non vorrei ridurre un tema così importante alla mia solita dialettica. Non lo è, ma è solo per dire che il governo attuale è questo, quindi non ce lo dobbiamo aspettare. Non credo, però quello che diceva Ceccanti è giusto, peraltro lo Stato non fa nemmeno pubblicità al proprio 8 per 1000, ed è criticato altrettanto per le stesse ragioni che dicevamo prima, lo Stato va solo il 7%, ma come dire, non c'è una pubblicità, non c'è neanche una destinazione chiara da parte dello Stato, gran parte di quelle risorse finiscono a disposizione del bilancio generale. Esatto, neanche lo Stato in realtà rispetta la legge che disciplina l'8 per 1000, per prima non lo rispetta. Quindi come vediamo di problemi ce ne sono tanti. Allora, e secondo me io ringrazio due ospiti, arriva alla fine. Ringrazio due ospiti di oggi, solo per spiegarvi che non c'è nessun intento antireligioso, ma anche su questo lo Stato riesce a fare casino a casa sua. E il problema però della rappresentanza in chiaro del mondo musulmano è un problema fondamentale per i diritti, i doveri e la sicurezza del nostro paese. Si ricollega a quello che abbiamo detto in altre trasmissioni sulle bambine pakistane o marocchine che non vedono i loro diritti rispettati nel nostro paese. Continuate su Radio 24, noi ci vediamo, sentiamo domani mattina dalle 10 alle 12, Conti da Belva, siamo in diretta anche domani.